Capitolo 2. Ti ricordi? Che deliziosa giornata, fatta apposta per noi, disse Diana. Sono un po' preoccupata. È un giorno meraviglioso, tuttavia domani ci sarà pioggia. Non importa, berremo la sua bellezza oggi, anche se il suo sole se ne andrà domani. Noi godremo dell'amicizia dell'una verso l'altra oggi, anche se dovremo separarci domani. Guarda. Quelle lunghe colline verdi e oro, quelle valli azzurre, sono nostre, Diana. Non mi importa se quella collina lontana è registrata a nome di Abner Sloan. Oggi è nostra. C'è un vento che soffia da ovest. Mi sento sempre intraprendente quando soffia il vento dell'ovest. E noi stiamo iniziando una passeggiata perfetta. E la fecero. Rivisitarono tutti i vecchi cari luoghi. C'erano stati alcuni cambiamenti. Le giovani betulle che formavano un piccolo anello dove Anna e Diana avevano avuto una piccola casetta per giocare molto tempo fa si erano trasformate in grandi alberi. Birch Path, a lungo inesplorato, era coperto di felci e il lago di cristallo era del tutto scomparso, lasciando solo una conca di umido muschio. Ma Violet Vale era tutta porpora di violette e il piccolo melo che Gilbert aveva trovato una volta lontano nel bosco era diventato un enorme albero in una cima interamente punteggiato di minuscole punte cremisi di gemme in fioritura. Camminavano a capo scoperto, i capelli di Anna ancora brillavano come mogano lucido alla luce del sole e quelli di Diana erano ancora di un nero lucente. Si scambiavano allegri e comprensivi, cordiali e amichevoli sguardi. A volte camminavano in silenzio. Anna aveva sempre sostenuto che due persone che si intendono tanto bene come lei e Diana potevano sentire reciprocamente i loro pensieri. Talvolta punteggiavano la loro conversazione con dei "Ti ricordi? Ti ricordi il giorno in cui sei caduta attraverso il capanno delle anatre dai Cobb? Ti ricordi quando siamo saltate sulla zia Josephine? Ti ricordi il nostro circolo del racconto? Ti ricordi la visita di Mrs. Morgan quando ti sei macchiata il naso di rosso? Ti ricordi come ci facevamo i segnali l'una all'altra dalle nostre finestre con le candele? Ti ricordi come ci siamo divertite al matrimonio di Miss Lavender e i fiocchi blu di Carlotta? Ti ricordi la società del miglioramento? Sembrava quasi che potessero sentire i loro vecchi scrosci di risa riecheggiare attraverso gli anni. Lavis era apparentemente morta. Era andata lentamente disintegrandosi dopo il matrimonio di Anna. Non riuscivano a tenerla su, Anna. I giovani di Avon Lee ora non sono più quelli che c'erano ai nostri giorni. Oh, non parlare come se i nostri giorni fossero finiti, Diana. Abbiamo solo 15 anni e siamo spiriti affini. L'aria non è solo piena di luce, è la luce. Non mi sembra che mi siano spuntate le ali. Pure io mi sento in questo modo, disse Diana, dimenticando che aveva inclinato il segno sulla scala graduata fino a 155 libbre quella mattina. Sento spesso che mi piacerebbe diventare un uccello per un po'. Deve essere bello volare. La bellezza era tutto intorno a loro. Ombreggiature insospettate baluginavano nelle buie dimore dei boschi e risplendevano nei loro affascinanti sentieri poco frequentati. Il sole primaverile filtrava attraverso le giovani e verdi foglie. Trilli di allegre melodie erano ovunque. C'erano piccoli avvallamenti dove ci si sentiva come se si stesse facendo il bagno in una pozza di olio liquido. A ogni svolta qualche fresca fragranza di primavera colpiva i loro volti, l'aroma delle felci, il balsamo dell'abete, l'odore dei salubri campi arati di recente. C'era un sentiero bordato con i fiori del dolce ciliegio, un vecchio campo erboso pieno di piccoli abeti che giusto iniziavano la vita e sembravano creature elfiche accovacciate tra l'erba, ruscelli non ancora troppo ampi da saltare. Una distesa di ricurve giovani felci e una betulla da dove qualche vandalo aveva strappato la bianca pelle esterna in diverse parti, esponendo i pallidi colori al di sotto della corteccia. Anna restò a guardare così a lungo che Diana se ne stupì. Lei non vedeva quello che vedeva Anna. tinte che andavano dal più puro bianco crema con squisite tonalità dorate, andando giù e giù fino allo strato più intimo, che si svelava il più intenso e più ricco marrone, a dimostrare che, come tutte le betulle, anche una tranquilla fanciulla esteriormente possedeva tuttavia accesi e colorati sentimenti. Il fuoco primordiale della terra nei loro cuori, mormorò Anna. E infine, dopo aver attraversato un bosco in una valletta piena di funghi, trovarono il giardino di Esther Gray. Non era cambiato molto. Aveva ancora la dolcezza dei suoi bellissimi fiori. C'erano ancora gigli giugno in abbondanza, così Diana chiamava i narcisi. La fila di alberi di ciliegio era invecchiata, ma era un cumulo di nevosa fioritura. Si poteva ancora trovare il vialetto centrale di rose, la vecchia diga era bianca di fiori di fragole, blu di viole e verde di giovani felci. Si misero in un angolo per mangiare la loro picnic cena, sedute su alcune vecchie pietre muschiose, con un albero di lilà dietro di loro che gettava bandiere viola contro un basso sole che indugiava. Entrambe erano affamate e fecero giustizia della loro buona cucina. Che bello assaporare le cose fuori di casa, sospirò Diana comodamente dopo il pasto. Questa tua torta al cioccolato, Anna, beh, mi mancano le parole, ma devo avere la ricetta. Fred la adorerà, lui può mangiare di tutto e rimanere sottile. Mi ripeto sempre che non devo mangiare più nessun dolce perché io ogni anno ingrasso. Ho un tale terrore di diventare come la prozia Sara. Era così grassa che doveva essere sempre tirata su dopo che si era seduta. Ma quando ho visto una torta così la scorsa notte al ricevimento, beh, tutti si sarebbero offesi se non ne avessi mangiata un po'. Ti sei divertita? Oh, sì, in un certo senso, ma sono caduta nelle grinfie di Arietta, cugina di Fred, e per lei è un tale piacere raccontare a tutti le operazioni subite, le sue sensazioni mentre le sta subendo e come la sua appendicite sia stata presa appena in tempo, altrimenti sarebbe scoppiata. Mi hanno messo 15 punti, mi ha detto. Oh, Diana, l'agonia che ho sofferto. Beh, lei ci godeva, anche se io per niente. E sicuramente ha sofferto, ma perché divertirsi a parlarne dopo? Jim è stato così divertente invece. Non so se a Mary Alice è piaciuto del tutto. Beh, giusto perché sei tu un piccolissimo pezzetto. Fatto 30, posso fare 31, suppongo. Solo una fettina non può fare molta differenza. Una cosa ha detto, che la notte prima del matrimonio era così spaventato che avrebbe voluto prendere il treno con la coincidenza di un battello nel porto. Ha detto che tutti gli sposi sentono la stessa cosa, se fossero onesti e lo dicessero. Pensi che Gilbert e Fred abbiano sentito la stessa cosa, Anna? Sono sicura di no. Questo è ciò che Fred mi ha risposto quando gliel'ho chiesto. Ha detto che tutto quello di cui aveva paura era che io cambiassi idea all'ultimo momento, come Rose Spencer. Ma non si può mai dire che cosa un uomo possa pensare. Beh, ora è inutile preoccuparsi di questo. Che piacevoli momenti abbiamo avuto questo pomeriggio. Sembra di aver vissuto così tante delle nostre vecchie avventure. Vorrei che tu non te ne andassi domani, Anna. Non puoi venire giù per una visita a Ingleside per quest'estate, Diana? Oh, mi piacerebbe, ma mi sembra impossibile uscire di casa in estate. C'è sempre così tanto da fare. Rebecca Diu sta arrivando, finalmente, e sono contenta. E ho paura che ci sarà anche zia Mary. Lei accennava così spesso a Gilbert. Neanche lui vorrebbe che venisse, ma è una parente e così la porta deve essere sempre aperta per lei. Forse potrò venire in inverno. Mi piacerebbe vedere Ingleside di nuovo. Hai una bella casa, Anna, e una bella famiglia. Oh, Ingleside è bella e ora la adoro. Una volta ho pensato che non l'avrei mai amata. La odiavo quando siamo andati lì all'inizio. La odiavo per le sue molte virtù. Era un insulto alla mia cara casa dei sogni. Mi ricordo di aver detto pietosamente a Gilbert quando l'abbiamo lasciata: siamo stati così felici qui, non saremmo mai così felici altrove. Ho fatto baldoria nel lusso della nostalgia per un po', poi ho trovato piccole radichette di affetto all'Ingleside che iniziavano a spuntare fuori. L'ho combattuta realmente, l'ho fatto. Ma alla fine ho dovuto cedere e ammettere che mi piaceva. E E l'amo. L'amo di più ogni anno che passa. Non è troppo vecchia come casa. Troppo vecchie sono case tristi. E non è troppo giovane. Anche le case troppo giovani non vanno bene, sono grezze. È giusto matura. Mi piacciono tutte le stanze. Ognuna ha qualche difetto, ma anche qualche virtù. Qualcosa che le distingue da tutte le altre, che le conferisce una personalità. Io amo tutti quegli splendidi alberi sul prato. Non so chi li ha piantati, ma ogni volta che vado al piano di sopra mi fermo sul pianerottolo. Sai, quella bizzarra finestra sul pianerottolo con la sede ampia e profonda. E lì mi siedo a guardare fuori per un momento e a dire: Oh, sia benedetto l'uomo che ha piantato quegli alberi, o la donna, chiunque fosse. Abbiamo davvero troppi alberi attorno alla casa, ma noi non rinunciamo a nessuno di essi. Oh, proprio come Fred. Adora quel grande salice a sud della casa. Rovina la vista dalle finestre del salotto, come gli ho detto più e più volte, ma lui dice solo: Vuoi tagliare una cosa così bella solo perché impedisce la vista? E così il salice rimane. Ed è bello. È per questo che abbiamo chiamato il nostro luogo la fattoria del salice solitario. Mi piace il nome Ingleside. È talmente piacevole, è un nome accogliente. Beh, questo è quello che ha detto Gilbert. Abbiamo impiegato abbastanza tempo per decidere sul nome. Ne abbiamo provati diversi, ma non sembrano appartenergli. Quando abbiamo pensato a Ingleside sapevamo che era quello giusto. Sono contenta che abbiamo una bella, grande casa spaziosa. Ne abbiamo bisogno con la nostra famiglia. I bambini la amano, anche se sono piccoli. Oh, sono dei tali tesori. Diana furtivamente si tagliò un altro frammento della torta al cioccolato. Penso che i miei siano proprio graziosi e piacevoli, ma c'è davvero qualcosa nei tuoi e le tue gemelle, poi. Quello ti invidio. Ho sempre voluto dei gemelli. Oh, non potevo sfuggire ai gemelli, sono nel mio destino. Ma sono rimasta delusa, non si somigliano neanche un po'. Nan è graziosa, comunque, con i capelli e gli occhi castani e la sua adorabile carnagione. Dee è la preferita di suo padre perché ha gli occhi verdi e i capelli rossi, rossi, con un turbinio di capelli. Shirley è la pupilla degli occhi di Susan. Sono stata male così a lungo dopo che lui è nato e lei se n'è presa cura, fino a che davvero quasi si pensa che è il suo bambino. Lei lo chiama il suo piccolo ragazzo bruno e lo vizia vergognosamente. E lui è ancora così piccolo che puoi entrare pian piano e vedere se ha tirato calci alle coperte e rimboccargliele di nuovo, disse Diana con invidia. Jack ne ha 9, come sai, e lui non vuole più che lo faccia, dice che è troppo grande. E mi piaceva tanto farlo. Oh, vorrei che i bambini non crescessero così in fretta. Nessuno dei miei è ancora in quella fase. Anche se ho notato che da quando Gemma ha cominciato ad andare a scuola non vuole più tenere la mia mano quando si attraversa il paese, disse Anna con un sospiro. Ma lui e Walter e Shirley, tutti vogliono che io rimbocchi ancora loro le coperte. Walter rende la cosa a volte proprio un rituale. E ancora non ti devi preoccupare di quello che vogliono fare. Ora Jack ha l'insensata voglia di fare il soldato quando sarà grande. Il soldato, proprio una bella voglia. Io non mi preoccuperei più di tanto. Dimenticherà quando un'altra fantasia si impadronirà di lui. La guerra è un ricordo del passato. Jem immagina di diventare un marinaio come il capitano Jim e Walter è sulla via per essere un poeta. Lui non è simile comunque agli altri. Ma tutti amano gli alberi e tutti amano giocare nella conca, com'è chiamata quella piccola valle appena al di sotto di Ingleside con sentieri di fata e un ruscello. Un posto molto comune, solo la conca per gli altri, ma per loro è il paese delle fate. Hanno tutti i loro difetti, ma non come certe bande di piccoli teppisti. E per fortuna c'è sempre abbastanza amore tutti intorno. Oh, che bello pensare che a quest'ora domani sera sarò di ritorno a Ingleside a raccontare ai miei bambini le storie nel metterli a letto e a lodare Susan per le sue piante. Susan ha fortuna con le felci. Nessuno può farle crescere come lei, onestamente devo lodare le sue felci. Ma la Calceolarias Diana? A me non sembrano fiori, ma non posso ferire i sentimenti di Susan dicendoglielo. Ho sempre evitato il discorso in qualche modo. La provvidenza mi ha assistita per bene fino adesso. Susan è tanto un tesoro, non riesco ad immaginare cosa farei senza di lei. E mi ricordo che una volta l'ho definita un'intrusa. Sì, è bello pensare di andare a casa e già sono triste di lasciare Green Gables. Anche qui è così bello con Marilla e con te. La nostra amicizia è sempre stata una cosa molto bella, Diana. Sì, e ci siamo sempre, voglio dire. Non ho mai potuto dire le cose come te, Anna, ma ci siamo sempre volute bene e abbiamo mantenuto il nostro vecchio solenne giuramento e la promessa. Sempre e sempre sarà. La mano di Anna trovò la via di quella di Diana. Restarono sedute a lungo in un silenzio troppo dolce per rovinarlo con le parole. Erano lunghe ancora le ombre della sera che cadevano sulle erbe e sui fiori e raggiungevano lontani prati verdi. Il sole era andato giù, sfumature rosa-grigio del cielo sprofondavano e impallidivano dietro gli alberi pensierosi. Il crepuscolo di primavera aveva preso possesso del giardino di Esther Gray, dove nessuno mai aveva più camminato. Petti rossi spruzzavano l'aria della sera fischiando come fossero flauti. Una grande stella uscì sopra i bianchi ciliegi. La prima stella è sempre un miracolo, disse Anna con aria sognante. Potrei stare qui per sempre, ammise Diana. Ah, odio il pensiero di lasciare questo giardino. Anch'io, ma dopo tutto abbiamo solo fatto finta di avere 15 anni. Dobbiamo ricordare le responsabilità per le nostre famiglie. Oh, quanto profumano quelli là. È mai successo a te, Diana, di sentire qualcosa di non del tutto casto nel profumo dei lilla fioriti? Gilbert ride di una simile idea, li ama, ma a me sembra sempre che ricordino qualche segreto, qualcosa di un po' troppo dolce. È troppo intenso per la casa, lo penso da sempre, disse Diana prendendo il piatto dove c'era il resto della torta al cioccolato. Lo guardò con desiderio, scosse la testa e rimise tutto nel cestino, con sul viso un'espressione di grande nobiltà e di sacrificio. Non sarebbe divertente, Diana, se ora, mentre andiamo a casa, incontrassimo noi stesse, vecchie, che corrono lungo Lover's Lane? Diana ebbe un brivido. No, non credo che sarebbe divertente, Anna. Non avevo notato che era diventato così buio. Vanno bene le cose di fantasia alla luce del giorno, ma andarono tranquillamente, silenziosamente, affettuosamente a casa insieme, con il tramonto splendente che bruciava sulle antiche colline dietro di loro. E il loro antico amore che bruciava indelebile nei loro cuori.